vita infame e poi puttana. Vita che prende da nulla regala. Questa vita un libro, un film si impara. E ogni uomo è autore della propria trama. Vita è chi si sveglia la mattina presto, pensa a tutti i sogni e le speranze che ha perso. Mario, vecchio, stanco, segni del tempo. Una vita da operaio ed un fottuto stipendio. Conosco Irina, lei è clandestina. E sa che se non vuole tornare dov'era prima. Ha un debito e paga il fatto che viva, cedendosi per soldi il primo pezzo di merda che arriva. Vita, voler trovare la forza di guardare su, fuori da questa fogna. C'è il sole, non soltanto la pioggia. È il motivo per cui battersi e credere in questa lotta. Non me la vivo come sono un randa, se la consumo prima che consumi me. Quel che so è che è la mia vita, il corso di una battaglia. Soltanto Dio può giudicarmi se io me la vivo come sono un randa, se la consumo prima che consumi me. Quel che so è che è la mia vita, e che è la tua vita, e che è la nostra vita. E finché vita c'è, vita infame poi puttana. Vita che prende da nulla regala. Questa vita un libro, un film si impara. E ogni uomo è autore della propria trama. I cattivi si accollano chili di ganja, e accampati su una panca campano di piazza. Smazzano dadi a cubette e ti dimana. Mentre mamma guarda e chiude un occhio su quel ciocco in tasca, papà beve, affoga con tutta la barca. Devo fare che per mandare avanti la baracca. Qui soldi non li metti in banca, lì si cambia, si investe in bianca bamba. Per pagarsi un'infamata ai caramba, perché in giro c'è sempre uno stronzo pronto a fottere un randa. Cane mangia cane, il mondo a puttane che si azzana. Non me ne foto, vado in giro e se ho fame cerco papà. Sciacca, abracadabra dalle mie labbra, in un labirinto fitto senza filo d'arianna. Devi essere abile, a testa alta, se Babilonio pone pesi che fanno 90 sulla tua bilancia. Non me la vivo come sono un randa, se la consumo prima che consumi me. Quel che so è che è la mia vita, il corso di una battaglia. Soltanto Dio può giudicarmi se io me la vivo come sono un randa, se la consumo prima che consumi me. Quel che so è che è la mia vita, e che è la tua vita, e che è la nostra vita. E finché vita c'è, vita infame poi puttana. Vita che prende da nulla regala. Questa vita un libro, un film si impara. E non finisce qui, no. E non finisce qui, no, no. E non finisce qui, no. E non finisce qui, no, no, no, no. Ehi, hey, vita è un ring, vita è un knockout. Tony ha due figli, già Lorenzo e Giorgia. Serve il cash, tocca smazzare Bonza. Non c'è lavoro che la legge si porta. E la vita è va, viene, sa quanto conta. E minchia, prima che Dio da lassù me la tolga, voglio lasciare un segno che resta un'impronta scritta su di un cazzo di beat che il mio rap sporta. Far culo scena hip hop, l'Oscar. La verità è corrotta, sì. La radio è la voce della menzogna. Lo sai, chi non si svende non svolta. E noi, frammenti di una vita buia nascosta, la si affronta fino alla conta delle ossa. Randaz, presenze forti nell'ombra di questo mondo stronzo, la mia risposta. Non me la vivo come sono un randaz, se la consumo prima che consumi me. Quel che so è che è la mia vita, il corso di una battaglia. Soltanto Dio può giudicarmi se io me la vivo come sono un randaz, se la consumo prima che consumi me. Quel che so è che è la mia vita, e che è la tua vita, e che la nostra vita. E finché vita c'è, vita infame poi puttana. Vita che prende da nulla regala. Questa vita un libro, un film si impara. E ogni uomo è autore della propria trama. Io me la vivo come sono randaz, io me la vivo come sono randaz, io me la vivo come sono randaz. E sono così randaz, e sono così randaz. E non finisce qui, no. E non finisce qui, no, no, no. E non finisce qui, no. E non finisce qui, non finisce qui. E non finisce qui, no. E non finisce qui, no. E non finisce qui, no. E non finisce qui, non finisce qui. E non finisce qui, no. E non finisce qui, no.